Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti al 35esimo Pinsimonio della stagione. Oggi andiamo a trattare le intolleranze. Le parole sono caparbietà, intolleranza, idiosincrasia, fobia e aporafobia. Cominciamo con caparbietà, di persona caparbia, che descrive un atteggiamento ostinato di chi fa o pensa sempre a modo suo e che non sente ragioni. Caparbietà che a volte può sfociare in intolleranza, che è innanzitutto la incapacità o impossibilità di sopportare. Intolleranza alle ingiustizie o intolleranza ad ogni autorità. Può esserci una intolleranza alimentare che per determinati cibi nel linguaggio corrente indica fenomeni che sotto l'aspetto clinico rientrano propriamente nel quadro dell'allergia o dell'ipersensibilità. Invece in senso ideologico, l'intolleranza indica un attaccamento rigido alle proprie idee e convinzioni, per cui non si ammettono in altri opinioni diverse e si cerca di impedirne la libera espressione, partendo dal presupposto dell'unicità della verità e dalla convinzione di essere in possesso della verità stessa. Intolleranza politica oppure intolleranza religiosa. E con l'intolleranza ha a che fare anche la idiosincrasia, che in medicina è una condizione di ipersensibilità che si manifesta con quadri clinici diversi in soggetti costituzionalmente predisposti e che insorge al contatto con sostanze verso cui l'organismo si mostra intollerante. Da qui, per estensione, è un'incompatibilità, un'avversione, una ripugnanza verso determinati oggetti, per lo più astratti, o anche verso situazioni o persone, avere una spiccata idiosincrasia per i numeri, per le date, oppure per le ingiustizie. E continuiamo con fobia, che in psichiatria è un disturbo psichico, consistente in una paura angosciosa destata da una determinata situazione, dalla vista di un oggetto o anche da una semplice rappresentazione mentale, che, pur essendo riconosciuta come irragionevole, non può essere dominata e obbligata a un comportamento inteso a evitare o a mascherare la situazione paventata. Può essere agorafobia o claustrofobia, ma nell'uso comune la parola indica genericamente e iperbolicamente una forma di avversione istintiva o di forte intolleranza verso qualche cosa. E negli ultimi anni è venuto alla ribalta un nuovo termine per indicare un certo tipo di fobia, che è la aporafobia, la cui definizione prendiamo non dal vocabolario Treccani, ma dall'internet, perché ancora è una parola giovane. Allora, l'aporafobia è una fobia che rappresenta la paura per la povertà o per i poveri. Può anche essere interpretata come ripugnanza o ostilità davanti al povero o all'indifeso. La differenza chiave tra aporafobia e xenofobia, secondo alcuni autori, sta nel fatto che ci sono società che accettano immigrati, ma a patto che questi si trovino in una buona situazione economica. Ma dato che spesso il flusso dell'immigrazione proviene da paesi poco sviluppati economicamente, verso paesi più sviluppati economicamente, agli immigrati poveri vengono associate caratteristiche negative e in questo si genera il legame tra aporafobia e xenofobia. Per cui ricordiamoci questo termine aporafobia, perché probabilmente in futuro lo sentiremo sempre più spesso. Così si conclude questo Pinsimonio, io lascio la linea alla rete e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con la rassegna stampa. Buona giornata! Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. E un ringraziamento speciale per averci offerto la base di questa puntata va ad Apo, che potete trovare su SoundCloud sotto il nome di Diego Mantovani. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Treccani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata! Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.